l'ultimo DPCM ha deciso una nuova chiusura dei cinema, dei teatri, degli impianti sportivi. Noi l'abbiamo detto subito, lo ripetiamo anche adesso, per noi questa decisione è un errore strategico, oltre a essere un danno che forse è irrimediabile per i lavoratori di questi settori. È un errore strategico perché in questo modo si propone l'idea che la produzione culturale non sia un'attività essenziale, non sia un'attività strategica per il nostro paese. Questa è un'idea profondamente sbagliata che rischia di avere delle conseguenze nefaste per il futuro. E inoltre, se a marzo era comprensibile un intervento drastico come quello che fu preso, perché non c'erano le misure di sicurezza, perché non si conosceva il nemico, non si conosceva il virus, per tante ragioni. Non dimentichiamoci che oggi la situazione è completamente diversa, perché in questi mesi, tra l'altro richiedendo enormi investimenti agli operatori della cultura, oltre che dello sport, sono state fatte profonde ristrutturazioni, sanificazioni, messe in sicurezza, messe in piedi dei protocolli sanitari, certificati, con il coinvolgimento delle istituzioni, sono stati fatti numerosissimi incontri per la definizione di questi aspetti. Ci si è dotati di dispositivi di protezione individuale, al punto che oggi io mi sento di dire con assoluta serenità che mi sento più sicuro in una sala cinematografica, in una sala di teatro, che a casa mia. E credo di non esagerare. Quindi il problema è la razionalità di questo intervento. Noi contestiamo radicalmente la razionalità e l'utilità di quello che è stato fatto. Peraltro, le risorse investite rischiano di essere drasticamente vanificate e rischiano di essere di dare il colpo di grazia a questo settore. E a mio avviso a poco vale le assicurazioni di ristori, parola un po' beffarda, e di nuove indennità a favore di operatori e di lavoratori del settore. Non perché noi non abbiamo fiducia nelle parole del Presidente del Consiglio o di questo governo, non è un problema di fiducia o di fede, non ci appartiene questo discorso. Noi guardiamo a quello che è stato fatto. Tantissimi lavoratori del settore hanno visto le loro indennità dopo mesi, 5-6 mesi, alcuni nemmeno dopo 5-6 mesi. Ancora ad agosto abbiamo avuto un rifiuto da parte dell'INPS per la maggior parte dei lavoratori intermittenti dello spettacolo. E solo dopo pressioni, lotte, interventi di ogni tipo abbiamo incominciato a vedere che qualcosa si stava smuovendo, ma ancora oggi ci sono tanti lavoratori che non hanno ricevuto queste indennità. Alcuni non le riceveranno perché per riceverle, sto pensando ai lavoratori intermittenti che hanno anche avuto accesso alla cassa integrazione, non riusciranno a ricevere l'indennità che pure potrebbero avere se non ci sarà una modifica legislativa, oppure un intervento da parte dell'INPS con una circolare applicativa che definisca che non c'è incompatibilità tra la fruizione di una cassa, che per questi lavoratori può anche erogare 30 euro invece di 600, e l'indennità. Se davvero si vuole dare ristoro a questo settore, ci sono stati 7 mesi per accettare gli emendamenti che venivano proposti da più parti e per rendere compatibile queste misure, e non si è ancora fatto. E adesso si parla che invece in qualche secondo daremo beneficio a tutti di ricevere queste indennità, questi risarcimenti, che non sono sussidi. I sussidi stanno se lo vado a cercare in casa loro, le aziende che hanno preso soldi senza meritarselo. Qua quando parliamo di indennità parliamo di risarcimenti per attività che per causa forza maggiore l'autorità ha impedito, che è un'altra cosa. Questi lavoratori sono alla disperazione. È chiaro che noi dobbiamo saper governare e incanalare positivamente questa situazione, ma il tempo è sempre più stretto. Il 30 ci sarà una manifestazione unitaria in tutta Italia, in tutte le piazze d'Italia, qui a Bologna, anche in piazza Roosevelt, di tutti i lavoratori della produzione culturale e dello sport. Speriamo che queste manifestazioni portino il governo a rivedere la sua posizione su questa materia.